dubbierò di lei, non ti parlerò. Tu puoi capirmi, ok, e consolarmi se vuoi. Certo che stasera un po' confuso e disperato, l'ho cercato come se cercassi lei, ma non ti prenderò per quello che non sei, amico. Come va la vita? Il tuo cane come sta? Fai sempre cabaret. Sei ringiovanito col carattere che hai, tu meglio solo stai. E vivi nel profumo, non ti innamori mai, amico. Tu avevi detto che di lei un'altra non ce n'è. Con ironia forse dovrei darti ragione, amico gay. Certo che stasera un po' confuso e disperato, ti ho cercato come se cercassi lei, ma non ti prenderò quello che non sei, amico gay. Tu che sei l'artista, il forte, l'anticonformista, adesso aiutami. Lascia quella maschera da stronza discoteca che somiglia a lei, e non ti prenderò quello che non sei, amico. Tu puoi capirmi se vuoi, stanotte canto finché il cuore batte, canto senza paga perché canto lei, o forse canto te, che non ti innamori mai, amico gay. Adesso aiutami, canto anche stanotte, canto finché il cuore batte, perché canto lei, o forse canto te, che non ti innamori.